12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi esploreremo il mondo del lavoro nel campo medico e approfondiremo la figura professionale del chirurgo insieme al dottor Fabrizio Cimino. Per capire meglio questo settore lavorativo e questa figura professionale, siamo partiti da un'indagine all'interno della classificazione delle unità professionali dell'Istat e lo specialista in terapia chirurgica viene definito come colui che conduce ricerche su teorie e metodi, ovvero applica le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e del trattamento chirurgico specialistico delle lesioni, dei traumi, delle disfunzioni e delle patologie. Sono compresi in questa categoria gli specialisti del trattamento chirurgico delle patologie otorino-laringoiatriche, ortopediche, ginecologiche, urogenitali, oculistiche, dell'apparato digerente, del distretto toracico e di quello maxillofacciale, del cuore e del sistema nervoso, nonché gli specialisti che effettuano interventi chirurgici a fini estetici. Approfondendo poi la nostra ricerca nel sito di ISFOL, abbiamo trovato una serie di attività che vengono correlate alla figura del chirurgo, tra cui, oltre ovviamente ad eseguire prestazioni chirurgico-specialistiche, ci sono ad esempio coordinare le attività e gestire l'organizzazione della struttura sanitaria, svolgere attività didattica, fare ricerca scientifica, partecipare al dibattito scientifico, studiare ed aggiornarsi, e l'elenco in realtà continua con molte altre attività. Quindi non si fa riferimento solo all'aspetto di cura, ma anche ad attività di tipo organizzativo-formativo. Sempre nel sito dell'ISFOL si trova anche una sezione dedicata alle attitudini per svolgere una determinata professione, ovvero le caratteristiche cognitive, fisiche, sensoriali e percettive dell'individuo che incidono nello svolgimento della professione e nell'esecuzione dei compiti e delle attività lavorative connesse. Per la professione del chirurgo, ai primi posti si trovano destrezza delle dita e delle mani e attenzione selettiva, ovvero attitudine a concentrarsi su un compito per un lungo periodo senza distrarsi. Per chi volesse approfondire la ricerca può collegarsi al sito dell'Istat www.istat.it oppure al sito di ISFOL www.professionioccupazione.isfol.it. Per quanto riguarda la possibilità lavorativa in Veneto per questo tipo di professione, nel sito del borsino delle professioni alla sezione quotazioni troviamo che nell'ultimo biennio censito 2008-2010 il dato è dell'83%, quindi sicuramente un valore molto alto. Per chi volesse, collegandosi al sito, si può approfondire la ricerca anche per territorio provinciale, e giusto per darvi un breve accenno vi segnalo che in provincia di Rovigo la percentuale si alza fino a toccare il 95%. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. E ora diamo il benvenuto al nostro ospite, il dottor Fabrizio Cimino. Fabrizio, in che cosa consiste il tuo lavoro oggi? Buongiorno a tutti, io sono un chirurgo e lavoro all'ospedale dell'Angelo, lavoro in chirurgia generale e chirurgia d'urgenza, per cui il mio lavoro consiste nella attività di chirurgia in elezione e di chirurgia d'urgenza, quindi il trattamento di tutte quelle patologie legate all'urgenza chirurgica e anche all'emergenza come la traumatologia. Ecco Fabrizio, per quanto riguarda il percorso formativo, fermo restando che tutti immaginiamo che l'università di medicina è la base per intraprendere questa carriera, ma che cosa si deve aspettare un giovane appunto che vuole arrivare ad essere un chirurgo, e quindi qual è il percorso formativo? E allora, chiaramente devi essere un laureato in medicina e chirurgia, ma la sola laurea, anche se un compendio sia medicina che chirurgia, non basta. Penso che un chirurgo deve anche intraprendere un percorso di specializzazione. La specializzazione è diversa a seconda della branca chirurgica. La mia è una chirurgia generale, che poi non significa che puoi diciamo eseguire qualsiasi tipo di intervento, ma ti limiti a una chirurgia addominale. Chi vuole fare il chirurgo del cervello, per esempio, deve fare un'altra specializzazione che si chiama neurochirurgia, e chi vuole operare al cuore diventerà un cardiochirurgo. Tutti questi specialisti hanno fatto una scuola di specialità che dura 6 anni, quindi è come un secondo percorso dopo la laurea, che dura, ha una durata altrettanto lunga, sono circa 12 anni di studio in totale. Ecco Fabrizio, quindi 6 anni circa dell'università, giusto, più altrettante di specializzazione, quindi sicuramente un percorso lunghetto. E sì, Fabrizio, durante la scuola di specializzazione, poi a livello pratico, c'è la possibilità di fare esperienze poi proprio sul campo? Ci sono, non so, all'interno delle strutture, degli ospedali, cioè come funziona un po' il meccanismo della specializzazione? Beh, lo specializzando oggi non è uno studente, è una figura in formazione di medico che già esercita la professione, per cui lo specializzando affianca un medico strutturato già specialista, o uno o più medici strutturati già specialisti, e si viene coinvolto in tutte le attività cliniche che vanno dal reparto agli ambulatori, ma soprattutto in chirurgia, chiaramente la sala operatoria, per cui lo specializzando comincia a imparare le tecniche operatorie di base durante il primo e il secondo anno, per poi sviluppare delle capacità più avanzate man mano che continua il percorso formativo, sempre affiancato dai medici strutturati che fanno da tutores in questo percorso. Assolutamente. Fabrizio, ecco, prima di continuare e di scoprire come dagli studi poi si acceda effettivamente al mondo del lavoro in questo settore, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, oggi parliamo del lavoro nel campo medico e della figura professionale del chirurgo insieme al dottor Fabrizio Cimino. Fabrizio, nella prima parte della puntata ci hai raccontato qual è un po' il lungo percorso formativo che un giovane deve percorrere per intraprendere la professione di chirurgo. Per quanto riguarda la possibilità di inserimento lavorativo effettivo, qual è stata la tua esperienza e quale oggi secondo te è la via da percorrere appunto per un giovane che vuole intraprendere questa carriera? Ma la mia esperienza è stata quella di dei primi lavori a tempo determinato. Come capita anche in altri campi e altre discipline, non è facile avere subito un impiego a tempo indeterminato. Questo però nel nostro campo ci permette di cambiare diversi ambienti, cosa che può essere anche positivo per un chirurgo, perché io ho lavorato per esempio un anno in una chirurgia che non è esattamente come quella che faccio ora, che è la chirurgia vascolare, che sicuramente però mi ha dato delle armi in più per gestire dei problemi con cui mi trovo ad avere a che fare adesso. Il consiglio è quello di chiaramente approfittare di tutte queste possibilità o comunque queste opportunità. Avere anche l'idea di spostarsi anche tanto lontano dal proprio luogo d'origine, perché quello ti facilita nell'inserimento nel mondo del lavoro, e poi arrivare a un concorso, perché un posto a tempo indeterminato viene assegnato per concorso che deve essere chiaramente effettuato. Certo, Fabrizio, un'ultima domanda. All'inizio della puntata abbiamo un po' elencato a grandi linee quali sono le attività di cui un chirurgo deve in qualche modo occuparsi, che non sono sempre strettamente legate alla presa in cura del paziente, ovvero ci sono anche aspetti burocratici, di comunicazione e relazione, di studio e aggiornamento, insomma attività abbastanza variegate. Secondo te oggi cosa conta per esercitare questo tipo di professione? Ma come sempre la cosa più importante è la dedizione, la passione, come in tutte le altre professioni. E mettersi in testa che quel lungo percorso formativo di cui parlavamo è solamente l'inizio di una vita che poi deve essere fatta di studi, perché la chirurgia, come tante altre discipline mediche, si evolve giorno dopo giorno, e tenersi aggiornati è assolutamente fondamentale per garantire ai tuoi pazienti poi le cure più moderne, le migliori cure che tu puoi dare in questo momento. Quindi ecco, mi pare di capire, da un lato ecco l'aspetto motivazionale, nel senso, e quindi anche di dedizione, come hai detto tu appunto, per questo tipo di professione, e poi dall'altro il costante aggiornamento, proprio perché credo che la medicina sia una materia poi in costante evoluzione, no? Certamente. Benissimo, Fabrizio, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie. E per tutte le informazioni utili e i consigli che ci hai dato. Una buona giornata a tutti. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. In chiusura di questa puntata dedicata al lavoro nel campo medico e alla figura professionale del chirurgo, vi segnalo che nel Veneto vi sono due università che propongono un corso di laurea in medicina e chirurgia, l'Università di Padova e l'Università di Verona. Per chi volesse avere informazioni e supporto nella scelta del proprio percorso formativo e lavorativo, l'Università di Padova, in cui è appunto presente la Facoltà di Medicina e Chirurgia, organizza incontri di orientamento al lavoro e alle professioni rivolti agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza dei profili professionali in uscita dai corsi di laurea confrontati con i bisogni del mercato del lavoro. Inoltre l'università organizza consulenze individuali per gli studenti universitari e per laureati che necessitano di un supporto per orientarsi nel mondo del lavoro. Per informazioni potete contattare il servizio stage e mondo del lavoro scrivendo a placement@unipd.it. Per avere informazioni invece sul corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia dell'Università di Verona, ci si può rivolgere alla segreteria studenti visitando il sito www.univr.it oppure scrivendo a segreteriastudenti.medicina@univr.it. Prima di salutarvi, ecco la ormai consueta anticipazione sulla prossima puntata, che sarà dedicata al lavoro nel settore alberghiero. E per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Bye bye! 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.